detto con le viscere, il fegato, tutto quello. Ci siete mancati. È vero, Sofia, che è mancato tutto questo? È mancato veramente. Passeggiavamo in un paesino dove abitavamo della Germania. Le case erano stupende, belle, c'era chi se la costruiva così, chi se la costruiva così, proprio belle. E noi passeggiavamo in un silenzio religioso, perché lì non si muoveva niente, pure i cani abbaiavano piano. Era una cosa incredibile, che ce lo siamo chiesti, proprio come i cani della strada nostra, è incredibile, ma è stato bello e grazie del vostro dono e quello che avete fatto per noi, è stata una bellissima esperienza riposante sotto tutti i punti di vista, ma la cosa più bella, la cosa più bella e la cosa che più amo è servire il Signore in ogni modo insieme alla sua Chiesa, tutti quanti noi. E questa sera io volevo proprio parlare del fatto, e non sapevo che c'era un nuovo canto, Gesù è vivo. E allora io, mi dovete perdonare, no? Gli autori del canto, non l'ho focalizzato ancora, per esprimere che Gesù è vivo, sono andato a rimbancare un canto di un qualche tempo fa che cantavamo e che diceva: perché egli vive, vivo anch'io. E quanto è vero, perché egli morì anch'io. Non è di tantissimo tempo fa, ma quanta verità c'è in una parola simile. Perché Gesù è vivo, tu vivi, io vivo. Perché Lui ha vinto la morte, noi vinciamo quotidianamente su ogni situazione. Vedete, noi ci impegniamo anche a nostro dispiacere, non volere, ci impegniamo a realizzare tutti i suggerimenti di vita che ci dà questa società, e alla fine che cosa ricaviamo? Qual è il risultato? Morte. E perché? Perché dietro c'è il principe della morte. E poi ci dobbiamo ancora di più impegnare per cercare qualcosa che ci dà un poco di vita, un poco di ancora di respiro, e anche lì ancora noi, ascoltando i suggerimenti, ascoltando quelle che sono le indicazioni che questa società ci dà, che dice lì è la felicità, lì è la gioia, lì è la pace, in quello troverai il meglio, alla fine sperimentiamo morte. Ma quando noi ci impegniamo a vivere Cristo nella nostra vita, nelle piccole, nelle grandi situazioni, nelle stupide e nelle importanti situazioni, noi ci impegniamo a vivere Cristo, noi sperimentiamo la vera vita, che è speranza. Questa è vita. Quando tu hai speranza in qualcosa, la vita è la serenità, la pace, anche quando le burrasche vengono intorno. Quella è la vera vita. Allora impegniamoci a vivere Cristo. La parola di Dio dice che quando noi facciamo questo, anzi io lo voglio leggere a voi, dalla seconda epistola ai Corinti, il capitolo 5, il verso 17, vedete come esprime quello che noi siamo in Cristo nel momento in cui noi viviamo Cristo. Dice: se dunque, è un passo che è straconosciuto, conosciamo molto bene, lo conosciamo a memoria, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Questo è il figliolo di Dio, una nuova cosa. Non dobbiamo pensare che è come togliersi un abito e mettersi un altro, non è cambiare vestito, ma è dentro. Perché il detto è a ragione, e i detti antichi hanno ragione, dice l'abito non fa il monaco. Quindi noi possiamo pur venire con la Bibbia sotto braccio e noi possiamo essere anche fedeli ai culti e a ogni cosa, ma non è una religiosità la nuova creatura, quello che tu non c'entri, stai in mezzo, ti sei confuso, quelli che loro testimoniano questa sera. Una nuova creatura, questa è la testimonianza, cioè il dire in Cristo io ho preso e prendo questa vita, non il cambio di una... Io ricordo quando è nato mio figlio, il nostro pastore, per il ginecologo, per farmi partecipare al parto, mi dette il suo camice. Allora, era un uomo alto. Allora, il camice era quasi un vestito da sposa a me. Ma la cosa speciale ed eccezionale che era è che quando mio figlio è nato e poi doveva andare nell'incubatrice per l'ittero, cose del genere, io avevo un pensiero in mezzo, io non lascio mio figlio. E dove andava questa culla andavo io. E la cosa speciale, eccezionale, è che quando arrivavo le porte si aprivano. E entravo e andavo proprio, allora l'abito fa il monaco, fino a quando non ho aperto bocca, perché nel momento in cui l'hanno messo nell'incubatrice e io ho fatto una semplice domanda, ma allora lei non è dottore. Vedete, allora il cambiamento di cui parla il Signore non ha a che fare con una gestualità o con una religiosità, ha a che fare con il nostro cuore, con la nostra vita, con quello che noi sperimentiamo, con quello che noi viviamo, è cambiare dentro. È cambiare dentro. Dice, ma come si fa a cambiare dentro? Beh, come si fa a cambiare dentro? Gesù, ho portato un piccolo esempio perché io so che poi l'illustrazione rimane a me specialmente. Gesù, per spiegarci questo, ci fa una lezione di agraria, ma proprio di sana pianta. È scritto nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 12, il verso 24, il Signore ci illustra questo cambiamento dentro, ci illustra questo essere una nuova creatura con un esempio, con una metafora, con proprio una lezione di agronomia. Capitolo 12 verso 24 parla di se stesso, ma vale anche per noi, e dice: e in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Il segreto qual è per portare frutto? Il seme c'è. Tu ed io. Il terreno pure. La parola di Dio. La ricerca dello Spirito Santo in ogni situazione della nostra vita, il vivere Cristo costantemente. E allora, vedete, io ho portato proprio l'esempio di un seme, il terreno e una pianticella. E questo l'ho presa velocemente, proprio accade ogni anno nel giardino di casa, che noi non raccogliamo le olive che sono amare, quell'albero che c'è, cadono e poi danno la pianticella. Ma il sorprendente è questo anche per noi. Il seme c'è. Vedete il seme? Ed è incredibile che questo è la stessa cosa. È la stessa cosa. Il seme c'è, siamo tu ed io. Poi Gesù continua nella lezione di agronomia a dare spiegazione su come realmente si riesce a fare il cambiamento. Perché noi possiamo dire, va bene, il seme c'è, la terra c'è, che cosa deve accadere perché venga la pianta, perché venga il frutto? Piantarlo. E lo mettiamo dentro, il terreno c'è. E lo facciamo pure. Come, non funziona? E non è venuto, vedete che cosa dice il Signore, sempre nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 15, il verso 4, dove parla della vite e del tralcio, capitolo 15, verso 4, dice, il segreto è, ascoltate, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Il segreto qual è? Dimorare. Non è che l'ho messo e viene la pianta. Non accade. Devi aspettare, dimorare. Vuol dire, che cosa vuol dire dimorare nel Signore? Sentiamo. Abita anche la dimora, che questo possiamo fare un bel esempio di questo. Ma è intrecciarsi, è stare, è leggere la parola. Non ti va di leggere, la leggi lo stesso. Come il cibo, non ti va di mangiare, ma mangi. È la stessa cosa. Dimorare, deve aspettare. Vedete, vi ho fatto vedere il seme che io ho messo qui dentro. Ora quello è un seme abortito che non è riuscito perché stava sulla pietra a me. Io l'ho trovato lì per terra. Ma questo seme qui sarà caduto, diciamo, ottobre dell'anno scorso. In autunno cade. È passato l'autunno, è passato l'inverno, è venuto la primavera, siamo a fine primavera e c'è già questa pianticella. Deve passare le sue stagioni, dimorare. E allora perché noi qualche volta agiamo diversamente? Signore, fammi, e poi già apriamo un occhio. Dici, non ancora? Perché non accade il frutto? Perché il segreto non è il seme, è la terra, è l'acqua. Qua è il concime, ma è il dimorare. Come era scritto in Giovanni 12, è morire. Vuol dire diventare una stessa cosa. Se io vado, la vogliamo tirare la pianticella, tanto questa ormai l'ho tirata già. Se io la tiro, vi renderete conto? Incredibile, Non c'è il seme. Non c'è il seme. È diventato tutt'uno con la terra e ha prodotto questa pianta. E la stessa cosa vale con noi. Se noi rimaniamo nel Signore, se noi viviamo il Signore, se noi leggiamo la parola di Dio, se noi la meditiamo e la riflettiamo durante il giorno, quel passo, quella parola, quello è dimorare. Ed è quello che ci permette di vedere le vittorie di Gesù e le promesse del Signore nella nostra vita. Quello cambia realmente il senso della nostra vita, non il miracolo che noi cerchiamo. Signore, guariscimi e subito dopo voglio vedere la guarigione. Il frutto è frutto di dimorare, è frutto di morire, di stare. Ecco, veniva detto che noi nel termine dimorare si comprende perché è tanto facile. Noi chiamiamo la nostra casa, come la chiamiamo? Dimora, la casa. Quindi è identificato con la dimora. Che cos'è allora la casa? Che cos'è la dimora? È il posto dove noi viviamo. Non è che viviamo la maggior parte del nostro tempo. Chi lavora 8, 9, 10 ore probabilmente sta più fuori casa che dentro casa, ma è laddove ha creato un ambiente per avere la sua comodità, un tavolo, delle sedie per mangiare, un letto per dormire, la cucina per cucinare. Ha creato tutto un ambiente per vivere, e questo è anche con la parola di Dio, e questo è anche con Cristo. Devi creare l'ambiente per stare con Lui. Non deve accadere il miracolo solo perché sei tu, solo perché sono io. Il Signore mi deve rispondere, deve realizzare quello che è il desiderio del mio cuore. Ma questo accade nel momento in cui io dimoro. Allora io credo anche, vedi, quando tu, io lo so qual è la parte più bella della mia casa, la immagino e la vedo. Quando tu ritorni la sera a casa, allora pensi a quella cosa, la poltrona. Ma prima, per chi ce l'ha, deve passare davanti al cane che gli deve fare le coccole e deve fare. Poi, dopo del cane, che ha i bambini piccoli, deve accudire, deve guardare, dare il bacio a tutti i bambini. Poi viene la moglie. E quella ti deve raccontare tutto quello che è accaduto durante il giorno, per filo e per segno. Nemmeno una virgola. Un altro poco ci impiega tutta la giornata per spiegarmi quello che è accaduto durante la giornata. E la poltrona, che è qui, si allontana sempre di più. Poi, alla fine di tutto quel discorso, sempre in piedi, sempre facendo, alla fine di tutto quel discorso dice: ci sarebbe da andare a fare spesa. Addio poltrona. Vedete? Eppure chiami quello dimora. Questo vuol dire il dimorare nel Signore. Non è sempre o solo o unicamente benedizioni e bellezza da parte di Dio che deve rispondere a ogni mia richiesta, ogni mia virgola. No, è vivere con Lui, è intrecciarsi con tutte le sue parole, è vivere gli stessi sentimenti suoi. È proprio questo che ci spiega che cos'è parola, che cos'è dimorare o dimora, è quel intrecciarci insieme, quello stare con il... Come si sta con il Signore? Non lo so come si sta col Signore. Devi stare a punto e basta. Come si fa a leggere la parola di Dio quando le palpebre cadono, non hai voglia, sei stanco, fa caldo? Si legge, perché sai che è nutrimento. Punto e basta. Quello ti permette, anzi io termino proprio dicendo, Vedete, anche quello che noi abbiamo visto e fatto tramite l'esempio è una nuova creatura, è quella pianta che viene da quel seme che ha dimorato nel terreno. Quindi è tutto un insieme, la vittoria è la nuova vita, è la nuova creatura. Mo lo faccio. Non è che mo entriamo nell'acqua e questi qui vengono tutti diversi, tutti. Che bello, Laura, è la terza generazione, sapete? Laura la nonna, ma non l'ho battezzata io. Pasquina, la mamma e Laura. Quanto è bello vedere questo, vedere questo. Non è che entrano nell'acqua e cambia tutto, no, è il dimorare, questo è il testimoniare, questo è l'arrabbiarsi contro le opere del maligno che vuole sempre portarci verso quello che è male e testimoniare e dire: io appartengo a Gesù, io vivo Gesù e voglio viverlo sempre. Termino con una semplice domanda, una domanda alla Totò, va bene? Perché ti piace quello che ti piace? Totò chiedeva: come si fa ad andare lì per ricordare? Come ti piace quello che ti piace? Perché come ti piace la pesca? Come ti piace il modellismo? Come ti piace il restauro? Come ti piace il bricolage? Come ti piace? Perché ti appassioni, perché ti dedichi, perché ti soddisfa, eppure fai una cosa che è una stupidaggine e ti dà tanta soddisfazione. Quanto più, come si fa a essere una nuova creatura stando con il Signore? Come si sta con il Signore? Stando con il Signore. Prendi la parola, a proposito e a sproposito, usala, parla con il Signore, nei momenti opportuni e nei momenti meno opportuni, e questo ti fa vivere e ti fa intrecciare tutto quello che vivi con Lui. E la conseguenza qual è? Una nuova creatura. Ora, quello che loro vanno a testimoniare questa sera con il battesimo è proprio questo: essere una nuova creatura. Essere una nuova creatura. Gesù vuole fare questo di te. Perciò vogliamo pregare adesso, pregare e ringraziare il Signore, e ringraziare il Signore anche per loro che testimoniano questo aspetto. Signore Gesù, grazie che sei vivo, che vivi e vivi in me e vivi in ognuno di noi. Grazie, oh Gesù, perché tu hai trasformato e rinnovato la vita di ognuno di noi, chi più chi meno, ma siamo tutti quanti in cammino. Grazie, oh Gesù, che siamo su quella tua barca. Abbiamo paura, non sappiamo come procedere, ma tu sei lì. È questa è la speranza, e questa è la vita più grande e l'avventura più bella che noi possiamo augurare a noi stessi in te. Ti ringraziamo e ti lodiamo, Gesù. Amen. Amen.